Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre, alcune informazioni di servizio. La prima è dedicata alla nostra mail, alla quale indirizzare le vostre riflessioni, le vostre attenzioni, i casi che denunciate, ed è un abuso al giorno @radio24.it. La seconda informazione di servizio è invece sul nostro sito radio24.it, all'interno del quale potrete scaricare e ascoltare con calma le puntate del giorno della mia trasmissione, ma anche delle altre trasmissioni, e scaricare tutto ciò che volete via podcast. L'ultima è relativa al mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, lo sapete ormai, si chiama Guardie o Ladri e lo trovate facilmente anche attraverso un motore di ricerca, e lì parlo, voi lo sapete ormai bene, mi seguite, devo dire sempre più numerosi, questo mi fa un enorme piacere perché è una catena di legalità che si viene a creare. Lì parlo appunto di legalità e criminalità organizzata, e oggi di questo, guarda caso, parliamo. Inizierei questa premessa, questa introduzione all'argomento con un "c'era una volta". C'era una volta in Calabria una provincia che si chiamerebbe Babba, fossimo in Sicilia, una provincia nella quale la criminalità organizzata, sì è vero, c'era, ma era comunque sicuramente meno devastante di quanto accadeva nel resto della Calabria e accade nel resto della Calabria, segnatamente la provincia di Reggio Calabria, la piana di Gioia Tauro, la provincia di Crotone. Questa provincia Babba era la provincia di Cosenza. Poi il comparire di alcune cosche devastanti, da una potenza devastante, quale ad esempio la cosca Muto a Cetraro, hanno cambiato un po' il panorama. E a Cosenza accade che alcuni giorni fa, proprio nel centro di questo che è il salotto buono della Calabria, un imprenditore riceve un messaggio che è inequivocabile. L'imprenditore si chiama Cosimo De Tommaso e produce in Calabria, con un'ostinazione ragguardevole e invidiabile, calzature di altissima qualità, che hanno calzato anche i piedi di George Clooney nella notte degli Oscar 2008. Questo imprenditore riceve un segnale inequivocabile, dicevo, che è una lattina di benzina con un accendino, chiaro segno di o ti adegui o fai come fan tutti, ma poi sentiremo se è proprio così, oppure sai qual è la fine che puoi fare, il tuo negozio è bruciato e questo è soltanto l'inizio. Questo imprenditore non si piega, ma sul fatto che non si è piegato noi lo sentiamo dalla sua viva voce. Buongiorno De Tommaso. Buongiorno. Allora, quando lei ha ricevuto questo segnale inequivocabile, racconti ai nostri radioascoltatori che cosa ha fatto. No, io mi sono recato in uno dei punti vendita dell'azienda a Cosenza, dove ho trovato davanti alla sala cinesca una busta bianca di plastica contenente una tanica con dentro un liquido, probabilmente benzina, e sopra un accendino accuratamente confezionato con un nastro adesivo nero, e sopra questo accendino c'erano due pallettoni di fucile. E quindi lì rimasi sorpreso perché sinceramente non mi aspettavo un avvertimento del genere. Insomma. E quindi la sua reazione qual è stata? La mia reazione è stata, come le dicevo, di sorpresa. Non era una cosa usuale alla quale io avevo immaginato, anche perché nessuna avvisaglia c'era stata prima. Ricordiamo che De Tommaso, per inciso, è stato un dirigente di Confindustria Cosenza per anni e nessuno lo obbligava a continuare a interessarsi di imprese nel suo territorio. L'ha fatto per amore di quella regione. E ha fatto una cosa splendida, De Tommaso. Si è recato dalle forze dell'ordine. È qui che la voglio portare al racconto di questa cosa. Sì, subito dopo, ecco, al di là della sorpresa, mi sono affrettato ad informare gli organi di polizia dell'accaduto, e devo dire che anche qui ho trovato un ambiente molto disponibile che si è messo a disposizione anche perché forse non era usuale che si procedesse ad una denuncia di tal genere. Esattamente, non è usuale, ha detto bene, e il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza della provincia di Cosenza ha preso sul serio questa cosa, lanciando un segnale molto forte, diciamo ai nostri ascoltatori, che adesso l'imprenditore Cosimo De Tommaso e la sua famiglia si trovano con tre tutele, come vengono chiamate, diciamo così, le sorveglianze discrete. Uno, presso la sua impresa a Paola, oltretutto nuova da un paio di anni, quindi che ha creato lavoro sul territorio, una a casa e una personale. Allora, questo è il racconto di quello che è accaduto a Cosenza, in una provincia, ripetiamo che una volta era una provincia tranquilla. ma per avere l'importanza del gesto sconsiderato di quattro qua qua qua legati a chissà chi, noi abbiamo chiamato a interloquire con noi il presidente di Confindustria Cosenza, Renato Pastore. Buongiorno Pastore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora Pastore, perché è importante la denuncia di Cosimo De Tommaso? Perché è importante il fatto che Confindustria Cosenza, Confindustria Calabria cavalchi questa lezione di legalità? Prego Pastore. Ma guardi, è capitata questa triste vicenda nel momento in cui Confindustria Calabria ha messo su un'azione a costo del gruppo delle associazioni degli industriali della regione per una campagna contro il pizzo. Noi sappiamo che, come ha detto bene lei, Cosenza è anomala rispetto a Reggio Calabria e alle altre province, perché non abbiamo mai subito fenomeni di 'ndrangheta, per capirci. Abbiamo subito fenomeni di delinquenza all'epoca in cui c'era la Cosca Pino, ma è sempre un fenomeno, come si dice, di delinquenza comune, contro il quale le forze dell'ordine hanno avuto sempre buon gioco. Dopodiché abbiamo goduto un po' di pace che, se vuole, è stata anche forse dovuta al fatto che nessuno denunciava. Nella realtà, che il pizzo sia un male endemico non solo della Calabria ma del sud e purtroppo anche del nord, deve essere attribuito anche al fatto che c'è la paura che domina in queste vicende. Viceversa, trovando uno spunto e trovando anche il coraggio, come ha fatto Cosimo, di denunciare, noi come Confindustria abbiamo detto: guarda, adesso ti mettiamo in condizione, se tu vuoi, il giorno che tentano di vessarti, noi saremo copriremo il tuo anonimato andando noi direttamente per controllare tutte le forze di polizia. E preparare questa azione, stiamo mandando in piedi intanto una campagna che non ha soltanto la necessità di essere veicolata da giornali, dai media, ma ha uno scopo ben più importante. Noi faremo circolare dei seminari nelle scuole, perché il messaggio più importante non è soltanto dell'immediato, ma nel creare una cultura anche ai nostri giovani che questi fenomeni vadano combattuti. Ecco, questo mi sembra molto molto importante. Mi piace questo gesto, Pastore, l'abbiamo detto mille volte, lo ripetiamo, una frase che amo tantissimo, di un maestro di scrittura e di moralità quale Gesualdo Bufalino, che diceva: la mafia si sconfigge innanzitutto con un esercito di professori, perché dalla formazione, dalla coscienza che nasce la cultura di legalità. De Tommaso, vorrei tornare a lei per farle una domanda. Lei che vive su questo territorio, è stato dirigente di Confindustria, quindi sa tutto molto meglio ovviamente di chiunque altro. Ecco, ma questo è potuto accadere anche perché, come diceva Pastore, la popolazione è stanca, cioè la reazione civile è anche piegata, come dire, da questa forza di questi mafiosi che tutto penetrano? Secondo me è accaduto perché in questo momento probabilmente ci saranno delle esigenze un po' più pressanti per questi gruppi che delinquono, insomma. Anche perché Cosenza non è una città violenta, Cosenza non è una città che produce delinquenza organizzata, e allora evidentemente esigenze particolari avranno portato a questo, ma questa è una supposizione molto personale. Certo, certo. Ecco, io volevo tornare un secondo da Pastore per chiedergli questo qui, ma questa campagna, no, contro il pizzo, che risultati sta dando? Io lancio una provocazione, ho l'impressione che i risultati non siano in linea con le attese. C'è molta gente che denuncia oppure c'è poca gente che denuncia anche in forma anonima il pizzo, Pastore? Guardi, Cosimo l'avrebbe fatta a prescindere dalla campagna. Indubbiamente, infatti, perché questo è a prescindere. A prescindere. Però noi abbiamo la sensazione, se lei va su Facebook e cerca "io non pago il pizzo", troverà che addirittura si stanno creando delle specie di giovani, parliamo, certo, sempre di, bene, bene, di comitati, bene, contro il pagamento del pizzo, che è per noi è già un significato forte. Ma vede, domenica 24 probabilmente il presidente degli industriali incontrerà Napolitano, il presidente di Confindustria Calabria, sì, proprio per una specie di collegamento con questa azione. Noi quello che vogliamo fare è sensibilizzare alcuni fenomeni che sono poi fondamentali per diminuire il problema del pizzo. Il problema del pizzo è molto cogente laddove c'è sottosviluppo. Assolutamente d'accordo. Allora, la nostra regione è una regione dove il sottosviluppo è endemico, perché gliene dico una di questa mattina che Cosimo capirà bene. una nevicata che sta cadendo a 800 metri su una superstrada di grande comunicazione come Cosenza Paola fa sì che la superstrada venga chiusa. Non le dico che cosa provoca questo ai traffici, al commercio e all'industria, perché bloccare una superstrada che collega il Tirreno o il Tirreno con il centro di Cosenza è significativo per la provincia, certo. No, vuol dire ritardi, cose, ma questo la dice lunga su come alcune strutture, leggi ANAS, non abbiano alcun interesse a fare le cose di interesse della cittadinanza. E questo è veramente molto grave. Io la ringrazio per il suo intervento, Pastore, così come ringrazio l'imprenditore Cosimo De Tommaso, e ringrazio in regia Pietro La Corte, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.